distingue il nostro lavoro, credo che sia d'obbligo, ecco, dare una dimensione, un tono festivo all'apertura di questo undicesimo corso accademico del nostro corso, che non comincia oggi, come sapete, ma ha cominciato nell'umiltà del quotidiano, vero fin dal 18, mi pare, di settembre, ma che, insomma, una volta all'anno deve anche avere una sua accentuazione con degna. Ecco, come sapete, l'apertura del corso superiore di scienze religiose, iniziato quest'anno, attiva il primo e il terzo anno, noi lavoriamo a scartamento ridotto, vero, a ritmo alternato più esattamente, no? Un anno il primo e il terzo, un anno il secondo e il quarto, no? Nella globalità del programma quadriennale che i nostri uditori certamente ben conoscono. Ecco, mi è d'obbligo dire un saluto cordiale, scusate se inverto un po' l'ordine, ma ecco, il Cireneo principale che porta il peso del corso istituzionale prima e del corso superiore di scienze religiose, il collega Don Renzo Zani, il direttore che segue con cura e attenzione, con competenza e dedizione, come voi sapete, ma poi i docenti, dei quali noi siamo sempre più felici, sono 37, se non erro, i docenti che ci donano la loro preziosa collaborazione nel corso. Non ci sono grandi novità, se non presenza del professor Carlo Prandi da Mantova, che da quest'anno prende l'insegnamento della sociologia della religione tra noi. Ecco, una particolare riconoscenza, veramente il nostro corso a questi docenti deve tutto, no? E sappiamo anche quanto loro, dal canto loro, stanno dimostrando anche la stima dell'opera che tutti insieme stiamo compiendo, dalle provenienze più diverse, con sacrificio di presenza che va ricordato almeno una volta all'anno. Ecco, poi abbiamo l'obbligo ovviamente di ricordare l'attiva presenza del personale, tanto più che adesso con la nuova sede in via Grazioli, insomma, certi problemi anche di presenza, di attenzione si sono moltiplicati. E poi saluto speciale agli studenti. Nel primo anno gli studenti iscritti sono 30, per il terzo anno sono 36 quest'anno. Ecco, se noi poi a questi aggiungiamo il numero degli studenti fuori corso, sono circa 150 nella loro globalità. Se poi guardo alla famiglia più larga degli anziani o dei diplomati, di quelli che hanno compiuto i corsi in questi 10 anni, abbiamo ormai alle spalle oltre 500 tra allievi ed ex allievi, vero, che hanno frequentato questo nostro corso. Ecco, quanto alle autorità, a me compete ricordare in modo particolare il presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, il professor Fabio Ferrari, che purtroppo è stato risucchiato proprio all'ultimo momento, stava uscendo quando io entravo e mi ha esplicitamente incaricato di dire la sua attenzione e la sua stima per il nostro lavoro. E poi la presenza, gli auguri da parte di Monsignor Arcivescovo, che, informato anche di questa nostra riunione, al direttore Don Zani ha affidato gli auguri e l'attenzione più premurosa. Ecco, siamo particolarmente grati al professor Giovanni Filoramo, che in questa occasione ha accettato la preghiera nostra di presentare la prolusione a questa apertura del nostro corso ordinario di storia del cristianesimo presso l'Università di Torino. Ricordiamo anche presenze illustri che per noi sempre sono di orientamento: il professor Bolgiani, che più volte è stato tra noi, il cardinal Pellegrino, il professor Pellegrino a suo tempo, che per, almeno per me personalmente, ma credo che anche per i colleghi di Torino, rimane sempre una grande stella di orientamento. Ecco, il professor Filoramo è veramente noto assai per i suoi studi su storia delle religioni e sociologia della religione. Ho visto l'elenco delle pubblicazioni che noi abbiamo in biblioteca, che contiene almeno 23 titoli. Ecco, ma tra questi mi ha fatto particolare impressione qualche titolo, come quello che parla del risveglio della gnosi, ovvero diventare Dio, oppure un altro mito, leggenda, storia dell'Antico Testamento, oppure sui nuovi movimenti religiosi. Ecco, che mi dà subito la sensazione non solo di un'attenzione viva ai fenomeni dell'antichità, ma insieme a un contatto vivissimo con i problemi della sensibilità attuale, che si avvicinano molto di più di quello che uno qualche anno fa riusciva a immaginare, vero, ai problemi continui dell'animo umano e della ricerca religiosa. Trovo questo tipo di discorso anche particolarmente congeniale all'indirizzo del nostro istituto, che, come tutti sanno, non è un istituto teologico dogmatico, non è dedicato esclusivamente o chiuso in una prospettiva rispettabilissima ma determinata entro l'ambito della teologia cattolica, ma volutamente si pone su un raggio di attenzione molto più largo, che tenta di inserirsi pienamente nella ricerca, nella sensibilità religiosa di ogni colore, che nella nostra situazione odierna si fa sentire. Cerca di accompagnarsi ad ogni tipo di ricerca, ad ogni approfondimento di coscienza, che oggi anche fuori dall'ambito, direi, professionalmente o ufficialmente religioso, pure si muove in tutta la generazione che stiamo vivendo. Lo ringrazio proprio di questa relazione, della quale ho appreso anche con piacere che la editrice Morceliana ambisce a pubblicarla poi appena possibile nella rivista Humanitas, e profitto dell'occasione per ringraziare, per ricordare anche il direttore della editrice Morceliana, che ci sta assistendo anche nella serie delle pubblicazioni e nella ricerca nel campo più generale della cultura e religione, che costituisce il nostro oggetto di attenzione. Come avrete visto, il titolo della prolusione odierna parla di comparazione, comparativismo e storia delle religioni, un rapporto difficile. Mi pare che si inserisce in pieno in questa prospettiva, per la quale certo il nostro istituto rimane particolarmente in attesa, in attenzione, e ringrazia di qualunque contributo, in particolare di un contributo così qualificato come quello che ci viene offerto. Professor Filoramo, la parola a lei. Sì, io ringrazio.